Respiro. Buon pomeriggio e ben ritrovati da Laura Bettini per questa nuova puntata di Respiro. Ci troviamo per la prima volta in questo orario, le 13:15 del sabato, ma d'ora in poi questo sarà l'orario del nostro appuntamento fisso. Parliamo oggi di auto elettriche, o meglio, ci togliamo qualche curiosità sulle auto elettriche. Perché? Perché ormai sono una realtà possibile, non una realtà vera e propria, ma una realtà possibile. Questa settimana, tra l'altro, a Roma si è tenuto un convegno in cui Agostino Ghi, capogruppo PDL in Commissione Ambiente alla Camera, ha illustrato i capisaldi della proposta di legge a favore della mobilità elettrica. Cosa ha detto Ghiglia? Gli obiettivi sono la riduzione delle emissioni nocive in atmosfera, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico, il perseguimento dei livelli prestazionali in materia di emissioni delle autovetture secondo quanto disposto dall'Unione Europea, e poi ha avanzato la sua proposta, un incentivo di 5.000 euro all'acquisto di veicoli elettrici con bonus a decrescere nei 5 anni di previsione, e poi anche finanziamento del 50% dei costi di infrastrutture delle amministrazioni locali e vantaggi fiscali per l'acquisto di vetture elettriche e per l'installazione di infrastrutture di ricarica. Quindi si tratta di incentivi che andrebbero a beneficio del consumatore, ma anche di chi si impegna nella realizzazione di infrastrutture per le auto elettriche. Questa per ora è solo una proposta. Nostro ospite è Andrea Baracco, direttore relazioni esterne di Renault Italia. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Andrea Baracco, che è nostro ospite ed è la persona alla quale chiediamo immediatamente se bastano alle case automobilistiche come Renault, che si impegnano nel settore delle auto elettriche, gli incentivi o forse ci vuole qualcosa di più. Beh, diciamo che sicuramente è necessario uno degli aspetti che affronta la legge Ghiglia, e cioè una serie di incentivi per creare le infrastrutture. Siamo di fronte a un mercato che è nuovo e che invece di utilizzare le pompe di benzina che tutti quanti conosciamo e sono presenti sul territorio da 150 anni, oggi abbiamo la necessità di creare delle nuove forme di rifornimento che possono essere sia nel garage di casa attraverso, diciamo così, degli appositi wall box che noi chiamiamo per la ricarica, ma basterebbe anche la presa normale a cui attacchiamo il telefonino, sia però per rassicurare le colonnine disposte nei parcheggi sia pubblici che privati. Per rassicurare in che senso? Che uno non abbia a rimanere senza benzina, tra virgolette, in giro? Diciamo che l'autonomia del veicolo è di 150 km, quindi è molto ampia e più che sufficiente per coloro che fanno normalmente i trasferimenti che vanno nelle grandi città, quindi da casa, ufficio, piuttosto che il supermercato o altro genere di commissioni. Certo è che laddove ci fosse necessità c'è la possibilità nelle colonnine disposte nei parcheggi di potersi rifornire di energia. È cosa difficile questa installazione oppure? Ma noi possiamo portare ad esempio quello che sta succedendo nelle città di Milano e di Brescia, dove noi abbiamo i progetti pilota per l'Italia e dove collaboriamo ovviamente col comune e con la società energetica A2A in questo caso. Mi sembra che l'installazione delle colonnine non rappresenti un grosso ostacolo per chi si occupa di energia, tra l'altro sono standard, quindi che valgono per qualunque tipo di automobile, quindi non è che siano identificative del marchio Renault. È necessario però, e in questo noi appoggiamo la proposta dell'onorevole Ghiglia, un disegno di legge generale e soprattutto una forma di incentivazione, perché ovviamente i comuni hanno necessità, o le società elettriche hanno necessità, come dire, di reperire i fondi per poter attivare questo circolo virtuoso. Senti, ho letto, il Salone di Parigi è andato molto bene, c'è stato molto interesse per i vostri veicoli elettrici. Quando è prevista la commercializzazione? Ma il Salone di Parigi è andato molto bene, diciamo che abbiamo dato una dimostrazione che quello che avevamo annunciato un anno fa come essere un progetto che stava partendo, a distanza di 12 mesi è qualcosa di realmente concreto. Per prevedere poi nel 2011 la commercializzazione vera e propria dei veicoli. Ci crediamo profondamente, non è semplicemente un esercizio di stile, anche perché c'è sempre stata la concezione dell'auto elettrica come se fosse poco più che un giocattolo. A proposito di questi giocattoli che non sono giocattoli, qualche accortezza che bisogna avere nel progettarli, che cos'è che cambia, facciamo qualche esempio per gli ascoltatori, rispetto a un'auto tradizionale, al di là dell'alimentazione, che questo ci è chiaro proprio fin dall'inizio, però... Certo, ma il discorso del veicolo elettrico porta con sé tutta una serie di valutazioni nuove anche dal punto di vista della progettazione, quale ad esempio l'attenzione alla coibentazione termica. Ovvero sia, se io ho sotto il cofano un motore che viaggia a gasolio o a benzina, posso rubare qualche cavallo di questo motore per riscaldare o raffreddare la mia vettura, ad esempio, o per utilizzare tutti i vari devices elettronici, dalla navigazione agli alzacristalli, eccetera. Ovviamente su un veicolo elettrico io non posso rinunciare a questi importanti vantaggi, ma devo pensare che l'energia che ho stoccato nelle batterie deve servirmi fondamentalmente per percorrere della strada. E quindi, ad esempio, ecco che sulla filiera della coibentazione termica del veicolo e quindi della fornitura ai costruttori si apre una larga prateria di studi, di ricerche e di nuovi materiali che potranno essere messi in atto. Io, Andrea, ti ringrazio, il tempo che avevamo a disposizione l'abbiamo praticamente esaurito. Andrea Baracco, direttore relazioni esterne Renault Italia, grazie. Buonasera a tutti. Grazie, a risentirci. Chiudiamo il capitolo auto elettriche e diamo il benvenuto al nuovo ospite di questa, il secondo ospite di questa puntata, che è Piero Perron, presidente del CONAI, ovvero il Consorzio Nazionale Imballaggi. Ci siamo sentiti con Perron la settimana scorsa perché il CONAI era in piazza con Raccolta 10+, ovvero una giornata dedicata interamente al riciclo e alla raccolta differenziata di qualità. Perron, com'è andata questa giornata? Come l'avete vista voi che eravate in piazza per ricevere le domande dei cittadini e fare informazione su questo argomento? Diciamo che è stato veramente un grande evento di sensibilizzazione. Avevamo previsto 100.000 decaloghi, no, su come fare una raccolta differenziata di qualità, e si sono esauriti anche abbastanza rapidamente. La prossima volta ne faremo di più. Alla fine sono state coinvolte, riteniamo, nelle città in cui si è svolta la manifestazione 3.200.000 persone. E inoltre, 3 milioni, quindi un bel numero. Sono state coinvolte, sì, perché sì. Diciamo, c'è chi ha preso il decalogo, chi si è fermato solamente a chiedere, eccetera. Questa è la nostra stima. E inoltre tutto l'applicazione poi che c'è stato dell'avvenimento, dell'evento tramite i media, ha permesso sicuramente di raggiungere una percentuale sensibile della popolazione italiana. Quindi una grande affluenza, siamo molto soddisfatti. Il Ministero dell'Ambiente ci sollecitava a farlo in più città, vedremo l'anno prossimo di riuscire a farlo. Certo, questo, quindi il Ministero stesso potrà aiutare per diffondere ulteriormente queste esperienze in altre città. Sì. Insomma, loro vogliono veramente estenderle, fanno una manifestazione veramente nazionale, da 20 città passare a un numero decisamente superiore. Ha un'idea un po' magari di quelle che sono state le richieste più frequenti dei cittadini al CONAI? Cioè, ma la curiosità è stata leggendo il decalogo, cioè molti cittadini hanno scoperto cose che li hanno colpiti, no? Come il fatto che si può riciclare il cartone della pizza, ma bisogna togliere tutti i residui di cibi, e sempre colpisce il fatto che i piatti non vadano, le ceramiche non vadano col vetro. Questo. Presidente, lei ci ha detto della collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, adesso le chiedo io invece di un'altra collaborazione, in questo caso con il gruppo Sole 24 Ore, quindi la cosa mi riguarda da vicino. C'è alle porte ormai un convegno, una giornata di studio a Milano il 21 ottobre, qui in via Monterosa 91, si parla di sostenibilità e prevenzione, nel dettaglio packaging, impresa e società. Lascerei la parola per inquadrarci il perché di questa giornata di studi. Ma diciamo che il CONAI istituzionalmente ha per missione proprio quello del recupero degli imballaggi, quindi questo è quello che sappiamo fare. Evidentemente poi per raggiungere gli obiettivi il CONAI ha dovuto anche porsi come esperto di raccolta differenziata, così abbiamo assistito vari comuni, cioè facciamo i piani industriali, però diciamo il CONAI istituzionalmente si occupa del riciclo dei materiali, no? Questo è fondamentale e siamo riusciti ormai a recuperare o anche a riciclare soprattutto e con una piccola parte di recupero ormai 3 imballaggi su 4, quindi il risultato è molto buono, però vogliamo ulteriormente migliorare e questo congresso deve essere un ulteriore stimolo proprio per il riciclo di qualità. Degli imballaggi noi ci siamo occupati in questa trasmissione molte volte perché gli imballaggi effettivamente ci riempiono per così dire la vita, cioè siamo pieni di materiale che poi scartiamo nel momento in cui acquistiamo qualcosa di nuovo. Non c'è modo di fermare questa corsa all'imballaggio? Ormai diciamo c'è molta discussione riguardo agli imballaggi, noi riteniamo che gli imballaggi facciano parte del nostro stile di vita, cioè è impossibile eliminare l'imballaggio come non si può eliminare l'automobile o l'aereo. Ormai c'è una diffusa sensibilità, credo che si sia fatto un importantissimo balzo culturale veramente, per cui oggi possiamo pensare di riuscire a conciliare effettivamente lo stile di vita basato anche su un mercato libero l'ecosostenibilità. E per questo facciamo questo congresso, per fare un po' il punto su questa situazione. Ci sarà all'inizio, con dei relatori molto importanti, una parte di introduzione al tema più generale e poi passeremo ad esaminare veramente il problema degli imballaggi, visti da un lato più da un punto di vista istituzionale, con la partecipazione appunto di personaggi legati al mondo istituzionale, e vedere anche poi l'imballaggio invece da un punto di vista industriale, con qualificati esponenti appunto dell'industria. Da tempo propugna il fatto che l'imballaggio deve essere seguito dalla culla alla culla, cioè da quando nasce a quando rinasce, e il l'ecodesign è fondamentale, cioè l'imballaggio ormai deve essere, e molte nostre aziende già lo fanno e speriamo che lo facciano tutte, deve essere concepito non solamente per la sua vita cosiddetta utile come contenitore di cibo, di altre cose, di altri elementi, ma anche in vista poi di un suo riciclo e di un suo riutilizzo integrale. E a questo punto invitiamo i nostri ascoltatori e chi nel settore è interessato a seguire questo convegno il 21 di ottobre qui presso la sede del Sole 24 Ore in via Monterosa 91 a Milano, ma promettiamo anche agli ascoltatori di darvi conto di quello che si dirà in questo convegno in una delle prossime puntate di Respiro. A questo punto, Presidente Perron, Presidente del CONAI, io la ringrazio per essere stato con noi. Grazie. Le auguro buon lavoro, a risentirci a presto. La puntata di Respiro di oggi si conclude qui. L'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.